La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui diretta dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre per l'ascolto e vi ricorda l'indirizzo La versione di Oscar @radio24.it per mandare proposte. Da quando l'ho fatto l'altro ieri già sono diverse le cose di cui parlare, e lo dico in ascolto perché preavviso, ci occuperemo in una delle prossime trasmissioni, vediamo se domani o dopodomani, del crack di Eurofidi, che è appunto segnalato da molti di voi da Torino. Eurofidi era il più grande consorzio fidi per piccole imprese italiane, stiamo parlando in Piemonte, il più grande in Italia, uno dei più grandi in Europa, ed è al crack, ci sono 250 persone per strada, ma è un pezzo della crisi del credito e delle garanzie all'impresa nel credito. Ce ne occuperemo, quindi ve lo dico subito perché voglio rassicurarvi, perché in effetti la stampa nazionale non se n'è occupata. Ma vi dico subito invece di che cosa parliamo oggi. Oggi parliamo di un testo di legge che ieri sera è stato votato alla Camera, non è ancora approvato in via definitiva, su un tema, il bullismo via internet, il cyberbullismo, che è tornato, è un testo di legge che in realtà era pendente nel dibattito da tempo, e la prima firmataria era l'onorevole Elena Ferrara del PD, ma che poi ha avuto un'accelerata nel corso dell'estate per via di durissimi casi di cronaca e ovviamente che hanno riportato il fenomeno su tutte le prime pagine dei giornali. Ecco, perché ne parliamo? Ne parliamo perché questa proposta è diventata, questa è una mia personale opinione, io sono molto critico verso questo testo approvato ieri, però bisogna che vi venga spiegato da addetti ai lavori. Stiamo parlando di una norma il cui fine dichiarato all'inizio era un fine nobilissimo, cioè quello di diffondere non solo una diversa cultura di consapevolezza del digitale tra i giovani, quindi con un piano anche nazionale nelle scuole, tutte cose che sono essenziali perché i nostri figli abbiano piena consapevolezza di che cosa vuol dire realizzare, custodire sui propri smartphone e così via, o nelle memorie in cloud proprie immagini, e che tipo di utilizzo ne possono fare magari poi altri con cui loro condividono queste immagini, e fine ricattatore, distruzione della personalità fino all'istigazione al suicidio. Tutto questo nobilissimo, se non che poi nell'esame parlamentare nel corso dell'estate questo testo a mio giudizio è molto cambiato. E il testo che è stato approvato ieri alla Camera, a mio giudizio, ma non solo mio perché io conto pochissimo, ma a giudizio di addetti ai lavori che seguono queste vicende con, professionalmente, e lo fanno da molti anni, cioè l'evoluzione di tutto ciò che è la comunicazione, il digitale, l'impatto che ha nelle diverse forme di comunicazione e l'impatto che ha sulla tutela dei diritti, come ovvio, e anche sulla preservazione della dignità, dell'onore personale e dell'equilibrio psicologico delle persone, ecco, è diventato un testo di legge che ha delle caratteristiche che, a mio giudizio, invece di una tutela nei confronti dei minori, configurano soprattutto un'arma nei confronti di chi non amerà polemiche pubbliche su se stesso, a cominciare dai politici, non solo i politici, ma è una cosa che secondo me non c'entrava nulla con la finalità di questa legge. Ve lo spiegheremo tra poco, tenteremo di capire se è fondata la critica di chi come me non ci si ritrova proprio in una cosa che dichiarava un fine e diventa un'altra cosa, per gli strumenti che sono identificati dalla legge per la rimozione di tutto ciò che può turbare, creare ansia in una persona addirittura. Prima di questo lasciate solo che vi dica che nel frattempo, pochissimi minuti fa, la notizia del giorno è maturata. La notizia del giorno era l'attesa a Roma dell'incontro che era stato annunciato a ora di pranzo, praticamente poco dopo, tra la delegazione del CONI guidata da Malagò e il sindaco di Roma Raggi, della sua giunta, in relazione al dossier per la proposta di Olimpiadi 2024 a Roma. Forse qualcuno di voi sa, se ha seguito i siti o i giornali radio, che poi alla fine l'incontro non c'è stato, perché dopo 35 minuti Malagò e la delegazione del CONI ha abbandonato, offesa, il Campidoglio, e c'è appena stata una conferenza stampa del sindaco Raggi e del vice sindaco Frongia, che ha detto un no grande come una casa alla proposta di Olimpiadi, citando molti dei dati che anch'io tra quelli, nelle trasmissioni degli ultimi mesi, citiamo come i motivi per un no ragionato dovuto ai bilanci completamente moltiplicati delle spese reali più delle Olimpiadi alle nostre spalle, tranne l'eccezione unica di Los Angeles completamente affidata a privati. Ha citato il fatto che 1 miliardo di euro ancora incardinato nella gestione commissariale del debito di Roma si vede alle Olimpiadi del 60, al fatto che i mutui da pagare per le spese dei mondiali 90 sono finite solo nel dicembre del 2015 per Roma, e a tutta un'altra serie di obiezioni. Non ne parliamo oggi subito perché la conferenza stampa è ancora in corso ora che sono entrato, ne parleremo domani mattina alle 8:20 ad Attentene 2 con Alessandro Milan, ma intanto vi volevo dire che questo è lo sviluppo in corso. Torniamo al testo. Io vi dico solo poche parole, traendole dal testo che ieri, dopo l'esame delle commissioni, era al voto dell'Aula. Ed è un testo, innanzitutto vediamo in che cosa consiste la definizione del bullismo digitale, per così dire. Eccolo qua. Scusate perché sto scartabellando. Ecco, ai fini della presente legge, con il termine cyberbullismo si intende qualunque comportamento o atto, anche non reiterato, rientrante tra quelli indicati al comma 2. Cosa dice il comma 2? Ai fini del presente legge, il termine bullismo intende l'aggressione o molestia reiterata da parte di una singola persona o di un gruppo di persone a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni, violenze fisiche e psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamento, offese e derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione pubblica, l'aspetto fisico o le indicazioni personali e sociali della vittima. Ecco, si prosegue poi dicendo che si intendono inoltre sotto questa definizione anche la realizzazione, pubblicazione o diffusione online attraverso la rete, chat room, blog o forum, di immagini, registrazione audio o video o di altri contenuti multimediali effettuate allo scopo di offendere onore, decoro, reputazione di uno o più vittime, nonché il furto d'identità e la sostituzione di persona operati mediante mezzi informatici e la rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, ovvero di pubblicare informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima. Ecco, cosa prevede questa legge, una volta identificata questa fattispecie, come vedete molto molto ampia, che è a tutela delle persone offese, e naturalmente nel caso sia un minore attraverso chi ne esercita la potestà parentale, poter rivolgere un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni in oggetto che lo riguardano, nonché di tutti i contenuti rientranti nelle condotte che sono state definite prima. Questa istanza di rimozione va ovviamente rivolta al gestore e spetta poi, nel caso in cui il gestore non ottemperi, in 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, spetta poi al garante per la protezione dei dati personali realizzare questa rimozione. Attenzione, perché il garante non aveva questi poteri nel nostro paese, non ha le risorse per farle, eccetera eccetera. Ma detto tutto questo, poi si parla di un piano di prevenzione nazionale, della parte che riguarda la scuola, eccetera eccetera. La mia sensazione è che la definizione che è stata introdotta nella legge e questo meccanismo della rimozione sconfinino in un'altra sfera rispetto a quella dichiarata inizialmente dalla legge, e cioè configurano l'ipotesi che si tratti di un vero e proprio intervento di censura. Dopodiché, siccome questo meccanismo è praticamente impossibilitato sulle grandi piattaforme come Facebook e così via, riguarderà solo i gestori italiani, con un'attribuzione di compiti al garante che a me sembra largamente fuori senso. senso. Allora, per parlare di questo testo e per capire se la fondatezza di chi critica come me sta su argomenti solidi oppure se invece no, abbiamo con noi due ospiti. Innanzitutto Stefano Quintarelli, deputato di Scelta Civica, imprenditore, che insomma è uno di quelli che da anni e anni si occupa di tutte le tematiche di internet, anche dal punto di vista operativo, lavorando nell'impresa, a cominciare da quella che ha fondato lui, e che, come ascolterete da lui, in effetti ha anche presentato degli emendamenti rispetto al testo che è andato in votazione. Grazie di essere con noi, Stefano. Buongiorno a tutti. È un giurista che è esperto di regolamentazione europea della telecomunicazione di internet, un giurista italiano, il suo nome è Innocenzo Genna, grazie di essere con noi. Buongiorno, saluti da Bruxelles, mi trovo al Parlamento europeo. Allora, Genna, io comincerei da lei. Questo testo la convince? È comunque positivo? Bisogna cambiarlo? Chi obietta sulla base delle considerazioni che ho svolto ha ragione o ha torto, secondo lei? La mia impressione è che sia un testo eccezionale rispetto alla pratica europea. Esistono già una serie di norme, in particolare una direttiva europea del 2031 che è stata implementata in Italia, più alcune norme settoriali, ad esempio per la protezione dei minori, che già prevedono un meccanismo di rimozione di contenuti illegittimi tramite l'intervento della magistratura. In alcuni casi ci sono anche delle autorità amministrative che possono intervenire, come in Italia l'AGCOM lo può fare nel caso degli illeciti di pirateria. Il fatto invece che vi sia questo sistema diretto dalla persona potenzialmente offesa all'operatore internet con determini così brevi, no, è abbastanza eccezionale, direi, e rischia di essere manipolato e abusato, per quanto bisogna ammettere che la legge era nata con degli scopi del tutto nobili e legittimi. Ma chi dice questo può diventare uno strumento nelle armi di chi non vuole critica, cioè una vera e propria censura rispetto a argomenti, critiche, anche produzione di inchieste giornalistiche con particolari che possono, sì certo, possono offendere l'onore di chi si ritiene offeso, ma che sono anche l'ABC di come si svolge il nostro mestiere, di una delle finalità più delicate ma anche più importante del mestiere del giornalista. A me pare che in realtà ricadano in pieno nella definizione che la legge dice di ciò che può permettere a un deputato, a un senatore, a chiunque, un uomo pubblico, un imprenditore, ma chiunque, di dire ne offendo l'onore, gli creo l'ansia e chiede la rimozione. Non è così? Sì, sì, può diventare uno strumento che può essere manipolato, appunto perché la definizione del fatto illecito da cui poi nasce la richiesta di rimozione è molto ampia, quindi può diventare un modo di pressione nei confronti delle persone che scrivono cose non gradite. Ma nella direttiva che citava prima europea, la definizione è più precisa e meglio identificata o è altrettanto ampia come in questo testo votato ieri? La direttiva è una direttiva, diciamo, orizzontale, che riguarda qualsiasi contenuto potenzialmente illecito. Questa direttiva prevede l'intervento o della magistratura o di un'autorità amministrativa indicata dallo Stato. Con la possibilità, quindi con responsabilità dello stesso improbabile solamente quando viene a conoscenza di un contenuto illecito ospitato ad esempio per conto dei terzi, come nel caso del social network, ma non c'è mai un meccanismo così immediato per cui entro 24-48 ore devo rimuovere il contenuto a fronte di una pena così elevata, cioè questo non è ammissibile, e penso che se la legge italiana andrà avanti verrà prima o poi attaccata da qualche parte in sede europea, perché un meccanismo del genere chiaramente può contravvenire non solo questa direttiva ma soprattutto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela la libertà di pensiero, ed è evidente che vi saranno potenzialmente casi in cui questo meccanismo può essere utilizzato per impedire a qualcuno di scrivere o di dire qualche cosa. E allora si capirà, appunto, che questa norma italiana, per quanto nata sotto i migliori auspici, può essere utilizzata per scopi diversi. Stefano Quintarelli, mi pare che anche Innocenzo Genna abbia delle, cioè, ci fa capire che rispetto alle norme europee siamo andati oltre, decisamente oltre. Come e perché il Parlamento ha modificato questo testo? Cosa pensi tu che sia opportuno fare adesso? Cioè, sono in buona fede? È un eccesso di buona fede? Allora, sono tre domande in una. Sì. Intanto il testo, sono due testi, sì. Uno è nato al Senato, è stato approvato al Senato, proposto appunto come ricordavi dalla senatrice Ferrara, e uno nato e che aveva finalità educative, e uno nato alla Camera che aveva finalità repressive. Come sempre accade, quando i testi si occupano della stessa cosa, dello stesso argomento, vengono unificati. Quindi il testo è stato pesantemente modificato a fine luglio, facendo questa, diciamo, mettendo insieme questi due aspetti. Una parte dei problemi nasce da quello che veniva ricordato prima. Alla fine questo qui è un equilibrio tra quanto è ampia la definizione della cosa, sì. a chi tocca e come si fa a toccare. Allora, se il chi tocca, ad esempio, fossero solo i minori, no, vabbè, che ci sia una questione di libertà di espressione legata ai minori, praticamente, insomma, si può escludere, quindi possiamo, certo, anche indulgere una definizione un po' più ampia dei, certo, meccanismi un po' più veloci. Ora, poi, il punto cruciale è che in realtà avevamo lavorato in commissione per proporre degli emendamenti e dei subemendamenti per cambiare la modalità di attuazione della rimozione dei contenuti, rifacendoci alle norme europee esistenti che richiamava prima l'avvocato Genna, intervenire la magistratura anche. Sì, diciamo, esistono la magistratura piuttosto che le corti civili, cioè, certo, le autorità amministrative, cioè ci sono delle fattispecie. Il problema è stato che a un certo punto è intervenuto un emendamento della Commissione Bilancio che ha detto: si approva il testo, basta che questo emendamento non venga cambiato, perché altrimenti potrebbero nascere delle situazioni di maggiori oneri per garante della privacy e conseguentemente la necessità di appostare dei soldi. Per cui alla fine la procedura di rimozione è venuta fuori così e non è stato possibile migliorarla per questo. Io ho cercato di spiegare che dal mio punto di vista cioè, il punto è, si vuole intervenire per dare la possibilità, anche laddove non ci sia un reato, di togliere dei contenuti, sì, perché contenuti che fanno pressione psicologica su dei ragazzi, anche su dei maggiorenni, insomma, contenuti che di bullismo, magari non sono proprio reato fino a quando non succedono delle cose gravi, ecco, però tutto sommato, quindi, se li togliamo, risolviamo un po', cioè gestiamo un po' la situazione, le cose rendono delle cose terribili, esatto, no? Il punto è che io ho detto, secondo me questa cosa, il fatto di togliere dei contenuti che non costituiscono reato in tempi così brevi, e rischia di essere usato in modo strumentale da altri anche, e allora qualcuno ha detto: ma no, quegli altri non lo fanno perché devono essere contenuti atti a generare ansia, eccetera. Ma come non lo fanno? Aspetta un secondo, ti interrompo qua perché abbiamo un minuto di informazione stradale, di informazione di servizio, ma ripartiamo esattamente di qua. Non riesco a credere che i colleghi parlamentari alla tua obiezione, che io condivido in pieno, dicano: no, ma come, non lo faranno mai? Lo farebbero regolarmente se solo potessero, come questa legge in realtà, se viene poi approvata dal Senato in questa formulazione, le autorizzerebbe a farti. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta per parlare di questo testo approvato ieri alla Camera, che dà norma al Senato, nata come una norma per tutelare i minori da rischi terribili, no? Dovuti all'inconsapevolezza e all'utilizzo da parte di terzi, poi di immagini, scritti, eccetera, contro il loro equilibrio psicologico, fini di ricatto, fini di pressione, fini di bullismo, appunto, diventa invece alla Camera un testo con una definizione amplissima del comportamento, non solo più per i minori, e con questa facoltà di rimozione a carico del garante 24 ore, se non avviene in 24 ore il garante poi deve intervenire, che a giudizio di parecchi, tra i quali ultimo io, è una cosa completamente diversa. E eravamo arrivati al punto nella ricostruzione di Stefano Quintarelli, deputato che si occupa di internet da sempre, quando fa presente ai suoi colleghi: ma guardate che così, questa è un'arma data ad altri, loro dicono: no, ma loro non lo farebbero mai. Ma non ci posso credere che questa è la risposta, Stefano. Beh, questa la sensibilità di fronte al fatto di dire questa legge può essere usata in modo strumentale, loro dicono questa cosa non succederà, perché poi si ravvisa subito che sono interventi non giustificati e che esulano dai comportamenti per i quali la legge è fatta. La mia osservazione è che il blogger che riceve una segnalazione di questo genere dal potentato che gli fa la prima cosa che fa per non avere rogna e per non rischiare di avere un procedimento davanti al garante della privacy è cancellare. Quindi è la valutazione di forme tra me e tra alcuni di noi e i colleghi sta proprio in questo, no? Che tanti colleghi ritengono che in definitiva se uno riceve delle richieste pretestuose non le seguirà, perché sono evidentemente pretestuose. La mia esperienza personale, conoscendo un po' l'ambiente online, dico no, chiunque riceve una roba piuttosto che di avere una rogna, per cui alla fine un effetto censorio ci sarà. Io ho proposto un emendamento per cambiare la cosa nell'ordine che diceva, secondo le norme che richiamava prima l'avvocato Genna, e quindi rifacendosi alla direttiva europea esistenti, no? Però purtroppo per questo vincolo di bilancio non era possibile approvarlo, per cui ho votato quello, poi mi sono astenuto dal votare tutti gli emendamenti successivi, ce n'erano una sessantina, e alla fine ho dato un voto di astensione sulla legge complessiva, perché tutto sommato la parte sulla prevenzione invece è positiva, quindi la parte di educazione. È positiva, quindi vediamo anche luci e ombre. Ora questa qui per me è un'ombra molto grave e dovrà essere modificata al Senato. Ma nella tua esperienza stando in Parlamento da mediatrice a oggi, al Senato secondo te gli stessi gruppi politici a cui appartengono coloro che ieri l'hanno votata capiscono che per via di quella obiezione del bilancio in realtà nasce un piccolo mostro e la cambiano oppure no? Allora, intanto la maggioranza alla Camera è schiacciante e quindi se la maggioranza decide di approvare una cosa, la approva, e anche se alcuni cambiano idea o fanno pressione, eccetera, le cose non cambiano. Non modificano il risultato. Diventano delle testimonianze, no? Abbastanza. Certo. Mentre invece al Senato la maggioranza non è così ampia e io so già che ci sono dei colleghi del PD, primo in testa l'onorevole Ferrara, che era la prima firmataria della proposta diversa al Senato. Esatto, del testo del Senato, che ha già detto che cercherà di migliorarlo, quindi poi c'è anche lo spazio perché tra la Camera e il Senato alcuni colleghi cambino idea e capiscano che, soprattutto alla luce di questo dibattito che si sta svolgendo ormai sui media, che questa possibilità non è una possibilità residuale, può essere molto concreta e molto attuale, insomma, come io credo. Ma domanda a Innocenzo Genna, torniamo al giurista, esperto di regolamentazione europea di telecomunicazioni ITRE. Ipotizziamo che invece passasse nel testo così com'è, che cosa può fare a quel punto il giornalista italiano, il cittadino italiano non convinto per sollevare il problema in sede europea? Allora, in primo luogo questa legge deve essere notificata a Bruxelles sulla base di una direttiva 98/34, per cui tutte le nuove normative che interferiscono sui servizi delle società dell'informazione, cioè internet, devono essere notificate alla Commissione europea per verificare che siano consistenti, quindi che non violino la normativa europea esistente. Sì. Non penso che il Parlamento europeo si sia posto il problema, perché questa notifica prevede un obbligo cosiddetto di standstill, cioè finché non viene la notifica per 3 mesi la normativa in questione non si può applicare. Se non viene fatta la notifica, la normativa è nulla di fronte al diritto europeo, che vuol dire che se viene applicata in un tribunale nazionale il giudice deve rilevare la nullità. Allora, intanto questo è il primo passo, poi si vede, noi ci daremo da fare per tentare di farla modificare al Senato e quindi speriamo di riuscirci. Continuate con la 24, appuntamento alle 8:20 domani mattina anche per parlare delle Olimpiadi di Roma. No, con me Alessandro Mina, attenti a noi due.